Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Sesta puntata. Come ogni mattina tra le 11 e le 12, l'acqua aveva cambiato rapidamente colore. Non era già più la massa scialba oleosa di mezz'ora avanti. Il vento teso del largo, il sole pressoché a picco, l'avevano trasformata in una distesa azzurra, sparsa di innumerevoli scintille d'oro. La spiaggia cominciava ad essere attraversata di corsa dai primi bagnanti, e anche i tre ragazzi lavezzoli, dopo aver chiesto permesso alla madre, si diressero verso il loro capanno per cambiarsi di costume. «Può darsi», ripeté fatigati, rivolto alla signora Lavezzoli, «ma dove li trova, cara signora? Pomeriggi come quelli che il sole ci prepara da queste parti quando si avvia a calare dietro l'azzurra vision di San Marino?» Aveva declamato il verso del Pascoli con voce cantante, leggermente nasale, spiccando ogni sillaba e facendo risaltare la dieresi di vision. Seguì un silenzio imbarazzato, ma già il dottore ricominciava a discorrere. «Mi rendo conto», continuò, «che i tramonti della riviera di Levante sono magnifici. Tuttavia bisogna pagarli a caro prezzo, al prezzo di pomeriggi infuocati, voglio dire, col mare trasformato in una specie di specchio ustorio e la gente costretta per conseguenza a starsene tappata in casa o al massimo a rifugiarsi nelle pinete. Avrà notato invece il colore dell'Adriatico dopo mezzogiorno. Più che azzurro diventa nero, insomma non se ne resta abbacinati. La superficie dell'acqua assorbe i raggi del sole, non li riflette, o meglio, li riflette sì, ma in direzione della Jugoslavia. Io per me, concluse, quasi affatto smemorato, non vedo l'ora di aver mangiato per tornare subito sulla spiaggia. Le 2 del pomeriggio, non c'è momento più bello per godersi in santa pace il nostro divino amarissimo. «Immagino che ci verrà in compagnia di quel suo amico inseparabile», disse acida la signora Lavezzoli. Richiamato così sgarbatamente alla realtà, fatigati tacque, confuso. Quando ecco un improvviso assembrarsi di persone a qualche centinaio di metri di distanza dalla parte di Rimini attirò l'attenzione di mio padre. «Che cosa succede?» chiese, portandoci una mano alla fronte per veder meglio. Attraverso il vento giunsero grida di evviva miste a battimani. «È il Duce che scende in acqua», spiegò la signora Lavezzoli con punta. Mio padre storse la bocca. «Possibile che non ci si salvi nemmeno al mare», si lamentò fra i denti. Romantico, patriota e politicamente ingenuo e inesperto come tanti altri ebrei della sua generazione, anche mio padre, tornando dal fronte nel 19, aveva preso la tessera del fascio. Fascista, dunque, era stato dalla prima ora, e tale in fondo era rimasto, nonostante la sua mitezza e onestà. Ma da quando Mussolini, dopo le baruffe dei primi tempi, aveva cominciato ad andare d'accordo con Hitler, era diventato inquieto. Non faceva che pensare a un possibile scoppio di antisemitismo anche in Italia, e ogni tanto, pur soffrendone, si lasciava sfuggire qualche amara parola contro il regime. «È così semplice, così umano», proseguì senza badargli la signora Lavezzoli. «Da bravo marito, ogni sabato mattina prende la macchina e via, è capace di far tutta una tirata da Roma fino a Riccione». «Davvero bravo», sogghignò mio padre, Chissà come sarà contenta donna Rachele. Guardava l'avvocato Lavezzoli con intenzione, in cerca del suo consenso. Non era senza tessera l'avvocato Lavezzoli? Non era stato firmatario del famoso manifesto Croce del 24 e almeno per qualche anno, almeno fino al 30, tenuto in conto di demo liberale e disfattista? Tutto fu vano, però. Gli occhi dell'avvocato, sebbene distolti finalmente dalle fitte pagine di Antonio Advers, si mantennero insensibili al muto richiamo di quelli di mio padre. Allungando il collo, socchiudendo le palpebre, egli scrutava ostinatamente in direzione del mare. I figlioli avevano noleggiato un moscone e stavano spingendosi troppo a largo. L'altro sabato, diceva intanto la signora Lavezzoli, io e Filippo si rincasava a braccetto per Viale dei Mille. Erano le 7:30 o giù di lì. D'un tratto, dal cancello di una villa, chi ti vedo uscire? Il duce in persona, vestito di bianco da capo a piedi. Io feci istintivamente «Buonasera, eccellenza!» E lui, gentilissimo, togliendosi il cappello, «Buonasera, signora!» «Non è vero, Pippo?» soggiunse, volgendosi al marito. «Non è vero che fu gentilissimo?» L'avvocato annuì. «Forse dovremmo avere la modestia di riconoscere di aver sbagliato», disse gravemente rivolto a mio padre. «L'uomo, non dimentichiamolo, ci ha dato l'impero». Come se fossero state incise sopra un nastro magnetico, ritrovo nella memoria ad una tutte le parole di quella lontana mattina. Dopo aver pronunciato la sua sentenza, a udirla mio padre sgranò tanto d'occhi, l'avvocato Lavezzoli era tornato alla lettura. Ma la signora, lei, non aveva ormai più ritegno. Spronata dalla frase del coniuge e in particolare da quella parola «impero», che magari non aveva mai colto prima d'allora dalle austere labbra di lui, insisteva a non finire sul buon cuore del duce, sul suo generoso sangue romagnolo. «A questo proposito», disse, «voglio raccontarvi un episodio di cui sono stata testimone io stessa 3 anni fa, proprio qui a Riccione. Una mattina il duce stava facendo il bagno coi 2 ragazzi maggiori, Vittorio e Bruno. Verso le 13 viene su dall'acqua. E cosa ti trova ad attenderlo? Un dispaccio telegrafico, arrivato un attimo prima, che gli comunica la notizia dell'assassinio del cancelliere austriaco Dollfuss». Quell'anno la nostra tenda era a 2 passi dalla tenda dei Mussolini, dunque quello che dico è la pura verità. Appena ebbe letto il telegramma, il duce uscì in una gran bestemmia in dialetto. Si capisce, il temperamento è il temperamento. Ma poi si mise a piangere. Gliele ho vedute io, le lacrime che gli rigavano le gote. Erano grandi amici, i Mussolini, dei Dollfuss. Anzi, la signora Dollfuss, una signora piccina, magra, modesta, tanto carina, appunto quell'estate era ospite loro, nella loro villa, coi bambini. E lui piangeva, il duce, certo pensando a ciò che avrebbe dovuto dire di lì a qualche minuto a quella sventurata madre, quando si sarebbero ritrovati tutti assieme a desinare. Un tratto fatigati, si alzò in piedi. Umiliato dalla frase velenosa della signora Lavezzoli, da quel momento non aveva più aperto bocca. Sopra pensiero non faceva che mordersi le labbra. Perché Delilier tardava ancora? Che cosa gli era accaduto? Con permesso, balbettò impacciato. Ma è presto, protestò la signora Lavezzoli. Non aspetta il suo amico? Mancano ancora 20 minuti al tocco. Fadigati borbottò qualcosa di incomprensibile. Strinse in giro tutte le mani, quindi si allontanò arrancando in direzione dell'ombrellone. Raggiunto l'ombrellone, si chinò a raccogliere il libro giallo e l'asciugamano di spugna. Dopodiché lo vedemmo attraversare di nuovo la spiaggia sotto il sole dell'una, ma diretto verso l'albergo, questa volta. Camminava a fatica, tenendo il libro giallo sotto il braccio e l'asciugamano sulla spalla, il volto disfatto dal sudore e dall'ansia. Tanto che mio padre, il quale era stato messo subito al corrente di ogni cosa e lo seguiva con occhio impietosito, mormorò sottovoce: «Pouvras». Subito dopo mangiato, tornai da solo sulla spiaggia. Sedetti sotto la tenda. Sì, alle 2 pomeridiane l'Adriatico diventava blu scuro, quasi nero. Quel giorno, però, fino a perdita d'occhio, le cime di ogni onda terminavano in un pennacchio di spuma, più candido della neve. Soffiava sempre dal largo il vento, ma adesso un po' di traverso. Se alzavo il binocolo militare di mio padre in modo da inquadrare lo sperone della punta di Pesaro, che chiudeva l'arco della baia alla mia a destra, lo vedevo piegare lassù in alto i tronchi dei pini, scompigliarne selvaggiamente le chiome. Sospinti da lui, dal vento greco del pomeriggio, i lunghi cavalloni color dell'inchiostro e bianchi sulle creste venivano avanti a ranghi serrati e successivi. A guardarli dal punto dove ero, pareva che si precipitassero all'assalto della terraferma. Ma ecco, invece, a mano che si avvicinavano, riducevano sempre più i loro cimieri di schiuma, sino a farli sparire del tutto negli ultimi metri. Sdraiato sulla chaise longue, sentivo il sordo urto di ogni ondata contro la riva. Il deserto del mare, da cui a poco erano scomparse anche le vele dei pescherecci, l'indomani mattina, che era domenica, li avrebbe viste schierate in maggioranza lungo le banchine dei porti canale di Rimini e di Cesenatico, rispondeva al deserto altrettanto completo della spiaggia. Sotto una tenda non lontana dalla nostra, qualcuno faceva andare un grammofono. Non potrei dire che musica fosse, forse jazz. Per più di 3 ore, comunque, rimasi così, con gli occhi fissi a un vecchio pescatore di telline che veniva sarchiando il fondo del mare a qualche braccio dall'asciutto, e con quella musica negli orecchi, non meno triste e instancabile. Quando mi levai su, poco dopo le 5, il vecchio continuava ancora a cercare le sue telline, il grammofono a suonare. Il sole, calando, aveva allungato di molto le ombre delle tende e degli ombrelloni. Quella dell'ombrellone di Fadigati toccava ormai quasi l'acqua. Dalla parte del mare, la rotonda davanti al Grand Hotel confinava direttamente con le dune. Non appena vi misi i piedi, notai subito Fadigati seduto su una delle panchine di cemento di fronte alla scalinata esterna dell'albergo. Anche lui mi vide. Troppo tardi per evitarlo. «Buongiorno», dissi avvicinandomi. Accennò alla panchina. «Perché non siede? Sieda un momento». Obbedii. Egli portò la mano al taschino interno della giacca, ne trasse un pacchetto di nazionali e me lo offrì. Nel pacchetto non c'erano rimaste che 2 sigarette. Si accorse che esitavo ad accettare. «Sono nazionali!» esclamò, con un lampo di strano fanatismo negli occhi. Comprese finalmente la ragione della mia incertezza e sorrise. «Oh, prenda, prenda pure, da buoni amici, una per lei e una per me». Fischiando sull'asfalto della curva, una macchina irruppe nel piazzale. Fadigati si volse a guardarla, ma senza speranza. Non era l'Alfa, infatti. Si trattava di una Fiat 1500, una berlina grigia. «Credo che dovrò andare», dissi. Tuttavia presi una delle 2 sigarette. Notò i miei zoccoli. «Vedo che viene dalla spiaggia. Chissà che bel mare oggi». «Sì, ma non per fare il bagno. Non le venga mai in mente di tuffarsi prima di una data ora, mi raccomando», esclamò. «Lei è un ragazzo, avrà un cuore senza dubbio ottimo, fortunato lei, ma la congestione fulmina. Tac! Stronca anche i più robusti». Mi tesse il fiammifero acceso. «E adesso? Ha qualche appuntamento?» domandò. Gli risposi, e del resto non mentivo, che ero atteso per le 6 dai ragazzi Lavezzoli. Avevamo fissato per quell'ora il campo di tennis dietro il caffè Zanarini. Era vero, mancava ancora una 20 di minuti alle 6, ma dovevo passare da casa, cambiarmi, prendere la racchetta e le palle. Temevo, insomma, di non arrivare puntuale. «E speriamo che Fannin non si metta in testa di venire anche lei», aggiunsi. «La mamma non la lascerebbe prima di averle rifatto le trecce ed io, intanto, perderei altri 10 minuti buoni». Mentre parlavo, lo vidi impegnato in una curiosa manovra. Staccò dalle labbra la nazionale per poi accenderla dal capo opposto, quello della marca. Quindi buttò via il pacchetto vuoto. Soltanto a questo punto mi accorsi che il terreno dinanzi a noi era sparso di mozziconi di sigarette, più di una dozzina. «Ha visto come fumo?» disse. «Già». Una domanda mi bruciava sulle labbra. «E dell'Ilier?» Ma non ne fui capace. Mi alzai e gli tessi la mano. Prima non fumava affatto, se non sbaglio. «Cerco anch'io di dare il mio modesto contributo alla diffusione del mal di gola», ridacchiò miserabilmente. «Ho pensato che mi conveniva». Mi allontanai di qualche passo. «Ha detto il campo di tennis è vicino al caffè Zanarini, no?» mi gridò dietro. «Chissà che più tardi non venga ad ammirarvi». Come risultò di lì a poco, non era successo nulla di grave a Delilier. Questo, semplicemente, che invece di fare il bagno a Riccione, ad un tratto gli era venuto voglia di farlo a Rimini, dove, all'altezza dell'Hotel Vittoria, conosceva certe sorelle di Parma. Aveva preso la macchina e niente, era sparito, senza nemmeno curarsi di lasciare 2 righe per il compagno di camera. «Era tornato circa alle 8», raccontò la signora Lavezzoli, che in compagnia dell'avvocato si trovava per caso nell'atrio del Grand Hotel a bere un aperitivo. «Improvvisamente avevano veduto quel Delilier attraversare l'atrio a gran passi, nero in faccia e confatigati quasi in lacrime alle calcagna. Fu Delilier ad avvicinarmi quella sera stessa sulla terrazza del Grand Hotel. Ci ero venuto coi miei genitori e coi soliti Lavezzoli, avvocato e consorte. Ancora stanco del tennis, non mi andava di ballare. Ascoltavo in silenzio la signora Lavezzoli, la quale, sebbene certo non ignorasse quanto la cosa potesse ferirci, si era messa a discorrere con obiettività della Germania hitleriana, figuriamoci, e della innegabile sua grandezza. «Badi però, signora, che il suo Dollfuss pare che l'abbia liquidato proprio Hitler», provai a farle notare. «Ma che cosa significa?» ribatté prontamente. Aveva assunto l'espressione compiaciuta e longanime della maestra di scuola disposta a giustificare nel primo della classe qualunque marachella. «Sono le esigenze della politica, purtroppo. Lasciamo stare le simpatie o antipatie personali. Fatto si è che in determinate circostanze un capo di governo, uno statista degno di questo nome, deve anche saper passare sopra, per il bene e il vantaggio del proprio popolo, alle delicatezze della gente comune, della piccola gente come noi». Ed ebbe un sorriso pieno d'orgoglio, nettamente in contrasto con queste ultime parole. Sconvolto, mio padre aprì la bocca per dire qualcosa, ma la signora Lavezzoli ancora una volta non gliene diede il tempo. Con l'aria di cambiare discorso e rivolgendosi direttamente a lui, era già passata a esporre il contenuto di un interessante articolo apparso sull'ultimo numero della Civiltà Cattolica a firma del celebre padre Gemelli. Tema dell'articolo era la cosiddetta «question juive». Secondo il padre Gemelli, riferiva la signora, le ricorrenti persecuzioni di cui gli israeliti venivano fatti oggetto in ogni parte del mondo da quasi 2000 anni non potevano essere spiegate altro che come segni dell'ira celeste. E l'articolo si chiudeva con la seguente domanda: «È lecito al cristiano, anche se il suo cuore repugna, si capisce, da ogni idea di violenza, avanzare un giudizio su eventi storici attraverso i quali manifestamente si esprima la volontà di Dio?» A questo punto, senza tanti complimenti, mi tirai su dalla poltroncina di vimini e mi eclissai. Stavo dunque con la schiena appoggiata allo stipite della grande vetrata che separa il salone da pranzo dalla terrazza, e l'orchestra aveva attaccato, se non sbaglio, Blue Moon. «Ma tu, pallida luna, perché? Sei tanto triste, cos'è?» cantava l'abituale voce melensa. «Blue Moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.» D'un tratto sentii due dita toccarmi duramente sulla spalla. «Ciao», fece Delillier. Era la prima volta a Riccione che mi rivolgeva la parola. «Ciao», risposi. «Come va?» «Oggi un po' meglio», ammiccò. «E tu cosa fai?» «Leggo, studio», mentii. «Ho due esami da dare a ottobre». «Eh già», disse Delillier grattandosi pensierosamente col mignolo fra i capelli lucidi di Brillantina, ma non gliene importava nulla. Di colpo il suo volto mutò espressione. A bassa voce, con l'aria di mettermi a parte di un segreto importante e guardandosi ogni tanto alle spalle come se temesse di essere sorpreso, mi raccontò rapidamente del bagno fatto a Rimini, nonché delle due ragazze di Parma. «Perché non ci vieni anche tu domani mattina in macchina? Io ci torno. Vieni, dai, aiutami. Non posso mica andare con due ragazze in una volta. E piantala di studiare.» Fadigati apparve in fondo al salone in smoking. Si guardava attorno strizzando gli occhi miopi dietro le lenti. La penombra lunare creata artificialmente per Blue Moon gli impediva di distinguere di primo acchito la giacchetta bianca di Delillier. «Ma», dissi, «non so se potrò. Ti aspetto in albergo. Cercherò di venire. A che ora partiamo?» «Alle 9:30, va bene?» «Sì, ma senza impegno», accennai col mento affaticati. «Ti vogliono.» «Allora intesi, eh?» fece Delillier girando sui tacchi e dirigendosi verso l'amico intento a pulire febbrilmente gli occhiali col fazzoletto. E di lì a qualche secondo il rombo inconfondibile dell'Alfa Romeo si levò dal piazzale sottostante ad avvertire tutto l'albergo che i due sposini, forse per festeggiare degnamente l'avvenuta riconciliazione, avevano deciso di concedersi una serata eccezionale.